certificazione, il via libera che ogni sportivo di base deve avere prima di intraprendere un'attività sportiva. Ecco, ci aiuti professore a sintetizzare quali sono i punti focali di questo decreto davvero importante? Ma il primo punto è che la certificazione agonistica per l'idoneità agonistica rimane così com'è, e questa è un'eccellenza italiana, una legge italiana col decreto ministeriale dell'82 che ha permesso oggi un riferimento importante a livello internazionale, che ha permesso di ridurre le morti improvvise sui campi di gara in un rapporto 1 a 1,5 milioni contro 1 a 100.000-300.000 alla media mondiale. Quindi abbiamo ridotto in Italia il rischio di almeno 10-15 volte rispetto agli altri paesi del mondo. Questa è una cosa importante, e al di là di ogni cosa è importante che venga riconosciuto come un elemento fondamentale lo screening e la prevenzione nell'affrontare l'età agonistica, dove l'Italia è un'eccellenza mondiale. Dopodiché devo dire che il decreto Balduzzi è stato estremamente innovativo, perché finalmente ha dato alcune norme importanti sia in termini di prevenzione sia in termini di intervento a valle. Intervento a prevenzione sul stato di buona salute, dove prima era solamente una certificazione abbastanza, diciamo, leggera, diciamo così, senza una valutazione vera di screening, se non una visita clinica, voglio dire. E quindi oggi, introducendo l'elettrocardiogramma di base quantomeno e la risoluzione della pressione arteriosa, e non dimentichiamoci che è fatta per gli atleti tesserati, soprattutto per gli atleti tesserati alle federazioni del CONI in età non agonistica, e quindi ad esempio l'età agonistica va in media dagli 8 ai 12 anni fino ai 45-50 per i tesserati delle federazioni, dove prima sostanzialmente, in particolare per i più giovani, non c'era screening, rappresenta fondamentalmente uno screening importante con un valore sociale importante, non solamente per ridurre le morti improvvise sui campi di gara, ma per andare a individuare tutta una serie di piccole patologie che non costituiscono non idoneità o inidoneità alla pratica sportiva, ma che possono essere prese per tempo e rappresentare un elemento fondamentale di salute e anche un risparmio sanitario in una politica corretta economica sanitaria. Le chiedo proprio su questo punto, ma ha colpito un aspetto di questo decreto che di fatto delega però alle società di fatto il compito di dotarsi dell'attrezzatura necessaria, in questo caso ad esempio dei defibrillatori. Da questo punto di vista c'è anche un programma di aiutare in qualche modo i club, soprattutto dilettantistici, all'acquisto di questi macchinari? C'è la possibilità di una defiscalizzazione di queste spese? Allora, intanto chiudevo adesso il discorso della certificazione dicendo che è stata alzata l'asticella, vuol dire, sulla prevenzione. E questo sul decreto Balduzzi, soprattutto anche per quanti vanno in palestra o facendo attività sportiva organizzata in strutture organizzate. Questo è un fatto estremamente importante in un paese civile e democratico in cui la salute sostanzialmente deve essere un bene prezioso. Per quanto riguarda poi a valle l'utilizzo del defibrillatore, è stato intanto dato 30 mesi di possibilità di adeguarsi. E poi alle società sportive, evidenti i termini cui lei dice di defiscalizzazione, questi sono temi che riguarderanno successivamente, io credo, il Ministero dell'Economia, e credo che debba essere fondamentale. Ma altrettanto fondamentale devo dire che è il pronto soccorso sportivo con defibrillazione, che è un protocollo della Federazione Medico Sportiva Italiana, fatto in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, che il CONI, la Commissione Scientifica del CONI, ha approvato, il CONI l'ha adottato, e anche nel decreto Balduzzi viene citato come elemento di riferimento per quanto riguarda l'attività sportiva delle federazioni del CONI. Correttamente, con il decreto Balduzzi non solo è stata alzata l'asticella a monte, ma anche a valle viene fatta una formazione a 360 gradi, e poi anche ovviamente il defibrillatore, che è uno strumento di un processo, di un modello, diciamo, italiano di grande rilevanza nella salute, nella tutela della salute della propria popolazione. Ecco professore, le chiedo ancora un ulteriore chiarimento: spetterà sempre alle società, anche quelle dilettantistiche, occuparsi della formazione degli operatori che poi andranno in qualche modo a intervenire in situazioni di emergenza, giusto? Sì, è un compito che spetterà alla Federazione Medico Sportiva Italiana, che ha, diciamo, il brevetto, chiamiamolo così, tra virgolette, il protocollo di questo corso formativo. sportivo in collaborazione con le varie federazioni, con cui con Consovelli essendo all'interno del Consiglio Nazionale del CONI. E quindi il CONI e la Federazione Medico Sportiva avranno, come dire, la titolarità e la responsabilità che abbiamo di formare e di attuare questo processo in, ovviamente, ottemperanza a quello che è il decreto legislativo che ben ha interpretato le esigenze di tutela della salute. Creerà ovviamente qualche disagio, ma non possiamo pensare di piangere poi le morti sui campi di gara e poi, quando invece in un momento di tranquillità, non preoccuparci e lamentarci di quello che può essere una corretta prevenzione. Appunto, andiamo a intervenire prima che accadano le tragedie di cui abbiamo parlato. Professor Casasco, le chiedo un'ultima cosa: di che numeri stiamo parlando? In generale è una rivoluzione che coinvolge quanti milioni di italiani che fanno sport e che quindi si confronteranno con queste novità? Ma intanto le società sportive, però voglio dire, ci sono state tante, anche nel decreto Balduzzi ci sono tante facilitazioni, ad esempio le strutture che ospitano più società sportive potranno organizzarsi per un'unica struttura di defibrillazione. Per quanto riguarda le società a basso rischio cardiovascolare, ad esempio, si è esentati. Insomma, quindi stiamo parlando, per quanto riguarda le certificazioni, stiamo parlando sicuramente di molti migliaia, decine di migliaia o addirittura milioni di persone. Credo chi fa sport attestato per le federazioni, insomma, sono già però tutelati dalla legge precedentemente. Quindi l'innovazione sostanzialmente riguarda quelli che sono invece quelli che non erano tutelati, ma non dimentichiamoci che ci sono tanti quanti andavano a fare la maratona e abbiamo visto anche decessi o malori durante le maratone o le corse ciclistiche amatoriali, magari senior, oppure magari le corse di sci di fondo, oppure anche nelle palestre gente che ha la pressione, è iperteso a 200 di pressione, a 220, e poi magari va a fare acqua spinning o pesistica. Insomma, quindi la corretta prescrizione, che poi riguarda la certificazione, ma riguarda anche l'educazione alla corretta prescrizione dell'attività fisica, che fa bene, ma non dimentichiamoci che è quello che è il tema caro alla Federazione Medico Sportiva Italiana, che dice che ogni attività fisica fa bene purché correttamente prescritta al pari di un farmaco. Quindi una dose inferiore non fa assolutamente niente, ma una dose eccessiva o fuori dose può essere letale o estremamente dannosa. Quindi io credo che sia un processo di prevenzione, ma anche che porti anche a un concetto di educazione di come l'attività fisica faccia veramente bene come prevenzione secondaria e terziaria su anche molte patologie, ma che deve essere seguita dall'aspetto medico per avere la giusta dose. Beh, professor Casasco, vedo che il lavoro nei prossimi mesi non le mancherà, siamo contenti di questo lavoro di prevenzione che andrete a fare. L'appuntamento è ancora qui a Bordocampo per poi verificare nei fatti quelli che saranno anche i problemi, ma che verranno poi superati nell'attuazione di queste nuove norme. Certo, ma soprattutto sarà una grande collaborazione degli specialisti di medicina dello sport unitamente ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, fondamentali in questa, anche nell'attuazione di questo decreto, ma anche nell'attuazione poi della tutela della salute della popolazione, e anche dei vari specialisti, voglio dire, che dovranno essere coinvolti, dai cardiologi, ai diabetologi, a quant'altro. Insomma, però la collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta sarà sicuramente importante, e già nelle commissioni si è visto la grande collaborazione che abbiamo avuto nell'andare a individuare quelle che potevano essere la tutela della popolazione italiana, sia la più giovane, sia quella che fa agonismo, ma soprattutto anche quella che è più anziana, voglio dire, che di cui necessita veramente l'attività fisica, ma ugualmente correttamente tutelata. Grazie a Maurizio Casasco per essere stato oggi nostro ospite qui a Bordocampo. Grazie a voi, grazie a lei. Per A Bordocampo di oggi è tutto, un grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito web www.radio24.it, scriverci alla mail a bordocampo@radio24.it e dialogare con noi attraverso il blog di A Bordocampo. L'appuntamento è, come d'abitudine, domenica prossima alle 14.30 e in replica il sabato mattina alle 6.15. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.